Sprung durch Technik, Donner und Blitzen, britischer Architekt. Tomorrow belongs to me. Schwein und Dummkopf, ein Bär bitte. Jürgen Klinsmann ist kaputt. Boris Becker, Himmel, Boom, Boom. Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Maite FM. Il calendario è spietato e quando arriva questo periodo dell'anno, proprio questi giorni a ridosso, insomma tra la metà di dicembre e Natale, esce fuori la puntata di Maite FM. Molte invece classifiche annuali escono ben prima, ma noi invece parliamo della nostra trasmissione che facciamo ogni anno e adesso ci siamo pure allargati, ne facciamo due di trasmissioni speciali su le canzoni migliori dell'anno, partendo da quello che dice Pitchfork, ma filtrato dai nostri gusti. Si sa come Maite FM sia una trasmissione assolutamente autoreferenziale, quindi me, myself and I ascoltiamo tutte 100 le canzoni che Pitchfork elenca tra le più rilevanti. Ovviamente c'è un discorso molto specifico sugli Stati Uniti, su anche sull'attualità, su anche sui fenomeni. La maggior parte di queste canzoni, devo dire, non è che poi restano nella storia, forse vengono scordate già l'anno dopo. Ma partiamo dopo questa premessa e partiamo dalla numero 100. Si tratta della giovanissima Maggie Rogers, il pezzo si chiama On and Off. Maggie Rogers, 1994, Maryland, inizia a suonare l'arpa a 7 anni, poi già alle medie suona anche, inizia a suonare piano, chitarra e a scrivere canzoni. Pubblica sul suo Bandcamp degli album come The Echo del 2012 ed altri, e anche come progetti scolastici, perché è una studentessa del Clive Davis Institute of Recorded Music di New York. E nel 2016 partecipa ad una masterclass con Pharrell Williams, scrive questo pezzo in 15 minuti, narra la leggenda Alaska, e all'ascolto pubblico di questo pezzo Pharrell si commuove, la loda a dismisura e bam, arriva al contratto con la Capitol, un tour del Nord America come headliner e un EP, Now That The Light Is Fading, che contiene appunto anche questo pezzo che stiamo ascoltando, On and Off. That place. Tra le sue ispirazioni lei cita Carrie Brownstein, Patti Smith, Kim Gordon e Bjork, quindi insomma promette bene. Tra l'altro ho visto che almeno in questi primi nomi, quindi la parte altissima della classifica, ci sono tante femmine giovani che appunto speriamo si facciano sempre più strada nel mondo musicale. Ovviamente andiamo in ordine sparso, cioè questa era la 100 e arriviamo alla 94. My feet can barely touch the floor. On the bus where everybody is tall. I tratta di Vagabond, pseudonimo di Letizia Tamko, 25 anni, camerunense, ma che vive a New York da quasi metà della sua vita, dall'età di 13 anni, laureata o diplomata, laurea breve, a 22 anni in ingegneria. 17 anni i genitori le regalano una chitarra acustica, lei dopo appunto aver studiato ingegneria comincia a fare canzoni pubblicandole sul suo Bandcamp, nel 2014 pubblica un EP e poi nel 2017 l'album vero e proprio di debutto che contiene questa canzone. La canzone si chiama The Embers, l'album si chiama Infinite Worlds e figura anche al 42esimo posto sempre nella classifica di Pitchfork degli album migliori dell'anno, quindi da tenere d'occhio o d'orecchio. Se lo squalo che mangia o se lo squalo che odia ogni pesce, infatti ho letto che una prima versione di questo pezzo si chiamava Shark e invece curiosamente questa versione definitiva si chiama The Embers, ovvero le braci. E dalla 94 scendiamo alla 92esima, o saliamo, 92esima posizione, troviamo una voce già conosciuta da diversi anni, dal suo fortunato debutto nel 2012 con Devotion, quando anche la vedemmo al Pitchfork di Parigi. Si tratta di Jessie Ware, il pezzo si chiama Midnight, tratto dal suo terzo album Glass House. Abbiamo scritto nel testo di presentazione delle puntate, ovviamente noi partiamo da Pitchfork che ha uno sguardo assolutamente centrato sulla realtà statunitense e se non è statunitense è britannica, come in questo caso la maggior parte dei pezzi sono veramente pochi, un terzo che non sono statunitensi, sono quasi tutti britannici con alcune eccezioni anche esotiche, ma lo sentiremo prossimamente. Dicevamo Jessie Ware, Devotion nel 2012, molti pezzi, quasi tutti prodotti da Dave Okumu degli Invisible. Poi Tough Love nel 2014 e Glass House quest'anno. Tantissimi collaboratori, anche Ed Sheeran, definito pochi giorni da Mirivic una mozzarella inutile, direi anche un po' prezzemolino, perché voglio dire, da cosa del genere fino anche ai duetti con Bocelli, cioè ormai anche basta. E però quando io vedo che ci sono canzoni con 7-8 autori accreditati, boh. E insomma abbiamo scelto le canzoni che ci piacciono, in molti casi canzoni che abbiamo ascoltato per la prima volta, perché voglio dire non è che si può stare proprio dietro a tutto, è soprattutto per pezzi di quella scena R&B, pop, rap, che è un po' più distante dalle nostre frequentazioni musicali, come però non sarebbe distante invece questo gruppo CCFX. Il pezzo è bellissimo, purtroppo l'ho dovuto tagliare anche se ne ho lasciati ben 6 minuti. Si tratta di un connubio tra musicisti della scena di Olympia, Mary Jane Dunphy, che fa parte di gruppi come Vex e CC Dust, diciamo della scena punk, e invece membri, in particolare Chris McDowell di un altro gruppo di Olympia che si chiama Trans FX, più noir gotico. E lei che si contraddistingue per questa voce potente, imperiosa, stentorea, mi verrebbe da dire. E questo pezzo si chiama The One to Wait, è tratto da un EP che ha pubblicato questa formazione ed è molto molto gradevole. L'EP è omonimo, CCFX. Jane Dunphy è conosciuta nelle sue attività musicali, il suo gruppo punk, ad essere proprio agitatissima, si contorce, si rotola, grida, urla, invece in questa nuova veste è molto delicata, nonostante la potenza della voce, questo dream pop polleggiato, direi, in questo ritmo così morbido. Una canzone che parla del fare le valigie e lasciare casa, infatti il video è un siamo un bianco e nero d'epoca, molto molto esposto. Lei che arriva e, insomma, in un aeroporto e un amico la va a prendere e poi insomma passano del tempo insieme. Oh, mentre scivola via. Sì, sì, FX, The One to Wait. Arriviamo al numero 88, dove troviamo Hooray for the Riff Raff. E Olivia sarà contenta di sentirla, perché è la sua artista dell'anno. E il pezzo si chiama Palante, ovvero in ispanico sarebbe avanti, e fa riferimento alle sue radici portoricane, anche se lei appunto è cresciuta nel Bronx e poi artisticamente si è spostata con la sua band, altri due membri della band, a New Orleans e adesso a Nashville. Get back home and be something. I just wanna fall in line and do my time and be something. Well, I just wanna prove my worth on the planet Earth and be something. I just wanna fall in love and not fuck it up and feel something. Well, lately, don't understand what I am. Treated as a fool, not quite a woman or a man. Well, I don't. Ma una struttura da ballata americana che mi ricorda molto Father John Misty. È un personaggio molto interessante. Alinda Segarra, sua madre è stata vice sindaco di New York con delega all'istruzione, salute e politiche giovanili sotto Giuliani. E adesso direttore esecutivo del Museo della Polizia di New York, mi sono chiesta, ma andranno d'accordo? Forse no. Lei è stata cresciuta dalla zia, è andata via di casa a 17 anni, ha attraversato il Nord America come l'inizio del Novecento, i vagabondi, fino a metà del Novecento, saltando da un treno merce all'altro. E poi è nata la band insieme a Caitlin Gray e Jordan Hyde. E poi due dischi autoprodotti nel 2008-2010, le cui migliori canzoni sono state unite poi in un disco pubblicato nel 2011. Ecco, anche questo passaggio un po' da vaudeville a me ricorda Father John Misty. Nel 2014 un album, Small Town Heroes, che li ha fatti conoscere un po' di più, e in mezzo, prima di questo The Navigator del 2017 che contiene questo pezzo, in mezzo dei viaggi. Che praticamente The Navigator è un concept album sulle sue radici. Alinda ha viaggiato, è andata in Porto Rico appunto per ricollegarsi, riconnettersi con le sue origini, le sue radici, e queste sono state le principali ispirazioni per il disco. Si ha le sue radici portoricane, dove ha potuto vedere i danni provocati dalla crisi del debito e i danni ambientali, ma dove però la cultura portoricana ha continuato a fiorire nonostante le avversità. E poi anche un ritorno anche nel Bronx, dove ha potuto constatare la gentrificazione della sua zona da quando se n'è andata. Miguel, Milagro, Olga, Manuel, from the nervous breakdown street where the mice live like billionaire. E questa citazione, questa voce era un pezzo del Puerto Rican Obituary del 1973 dal poeta e autore teatrale Pedro Pietri. From El Barrio to Arecibo, Palante. E questa parola appunto, Palante, prende il titolo da un giornale pubblicato a New York da portoricani socialisti, quindi proprio avanti come il nostro giornale socialista L'Avanti. To all who came before we say Palante. E quindi Rifford e Ref hanno deciso di spostarsi a Nashville per fare questo disco, che è dedicato ai protettori dell'acqua di Standing Rock, ovvero la riserva tra Nord e Sud Dakota, contesa, terra contesa per la costruzione dell'oleodotto e le proteste ignorate, insomma, dall'amministrazione americana. E poi dedicata anche alla popolazione di Peñuelas in Porto Rico, che protestano invece contro lo sversamento delle ceneri di carbone che contaminano l'acqua. Quindi l'acqua è il fattore unificatore dei Navigator, d'altra parte. Un riferimento a Silvia Rivera, la iniziatrice dei Stonewall Riots, anche lei di origini portoricane. E voglio dire, ci stanno bene queste due canzoni, una vicino all'altra. Non c'è niente da dire, anche se si tratta di Harry Styles, numero 87 con Sign of the Times. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned. Esordio solista così trionfale di Harry Styles, classe 94, a 16 anni partecipa alle audizioni di X Factor UK, dove viene costruita proprio la boy band che è diventata famosa nel mondo come One Direction 2010-2015. Poi appunto nel 2016 si gettano le basi per una carriera solista e nell'aprile di quest'anno se ne esce con questo singolo che anticipa il suo album omonimo. Io penso che la prima volta che l'ho sentito nominare è stato come fidanzato di Taylor Swift, cosa del genere, o oggetto di qualche canzone. E l'album di esordio, appunto, un insieme di ballate, di psichedelia, di Britpop. Secondo me è un po' come si è, diciamo, posizionato dopo lo scioglimento di Take That Robbie Williams, ovvero c'era Mark, quello secco, che era molto più indie, e c'era Robbie, era tutto questo misto. Told me that the end is near. We gotta get away from l'altro una carriera lanciata anche come attore, uno dei coprotagonisti di Dunkirk. Christopher Nolan, dove recita il ruolo di un soldato, un commilitone del protagonista. Poi citiamo en passant al numero 86 Bats con Dream Daddy. In realtà si tratta solo di un jingle, diciamo di un minuto, che di un intro che presenta un videogioco in cui tu sei un daddy che rimorchia altri daddies. E arriviamo al numero 84, dove troviamo delle vecchie conoscenze, ovvero il collettivo dal numero variabile minimo 6, massimo tipo 11-12, ovvero Broken Social Scene, la creatura fondamentalmente di Kevin Drew, Arts and Crafts, appunto l'etichetta collettivo canadese. Sono tornati con un album dopo un po' di anni. L'album si chiama Heart of Thunder e la title track è quella che ci ascoltiamo e che Pitchfork ha messo all'84esimo posto e che... ha la voce di uno dei membri di Broken Social Scene, del collettivo On and Off, che poi ha fatto anche molto successo singolarmente, ovvero Feist. Braccio del tuono, i ricordi dell'adolescenza che qui Feist rivisita prendendo ispirazione dai suoi diari da adolescente. Chi eri e chi non sarai mai più, la libertà della giovinezza. I giorni in cui la fermata dell'autobus era grande quanto il mondo intero. Queste prime canzoni stanno molto bene una accanto all'altra. Numero 82, siamo arrivate alla Zola Predona. Abbiamo detto di tutto, tutto praticamente. A fine settembre, con la prima puntata di questa nuova stagione, abbiamo fatto uno speciale su Okovi, il nuovo album di Zola Jesus, e Pitchfork ha deciso che meritava di far parte di questa classifica con Siphon. E nella monografia su Zola Jesus abbiamo detto come gran parte dei temi del suo ultimo disco riguardino, insomma, la morte, la depressione, soprattutto il desiderio di morte di persone vicine, amici, parenti, o che lottavano contro la morte, resistendo alle malattie. E questa Siphon, dopo Witness, sono due canzoni, stanno anche una dietro l'altra nel disco, che fanno riferimento alla stessa persona, e in questo caso appunto al secondo tentativo di suicidio da parte di questa persona. E senza lasciare lo spazio a delle metafore, a dei testi insomma un po' ermetici ed evocativi, lei dice molto molto apertamente e chiaramente: preferiamo ripulire il sangue di un uomo che è ancora vivo. In serie, vogliamo evitare in tutti i costi che tu abbia questi pensieri cupi, questa notte dentro la tua testa. Vogliamo fare di tutto per allontanare il coltello da te. Lasceremo, non possiamo lasciare che tu ti dissangui. Siamo tutti qui attorno a te, hai una rete familiare di amicizia a cui puoi fare riferimento, non sei solo. E questo è il messaggio di Nika Rosa Danilova. E subito dietro al numero 81 troviamo The National, con il pezzo secondo me più interessante del loro album, più innovativo. L'album è Sleep Well Beast e il pezzo è The System Only Dreams in Total Darkness. Maybe I listen more than you think, and I can tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in, we said we'd only of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking to God. Tra l'altro ho fatto una comparazione tra le 100 migliori canzoni di Pitchfork e se c'erano gli album relativi se comparivano anche nella classifica dei 50 migliori album, e Zola Jesus con Okovi figura al 41esimo posto, mentre i National non ci sono, ma abbiamo a nostra volta, perché la serie complichiamoci la vita, visto se gli album di cui fanno parte, da cui sono state tratte le canzoni che sono state messe in classifica, bla bla bla bla, abbiano avuto un ruolo rilevante anche nel risultato aggregato di tutte le liste dei media specializzati, ovvero tutte quelle che si trovano belle ordinate in albumoftheyear.org, dove invece i National figurano. Figurano addirittura al 9° posto come album dell'anno. Questo pezzo, appunto, dove Behringer parla del mondo fottuto di cui facciamo parte. Pezzo in cui anche cercare di articolare, di spiegare in che casini siamo è già stancante di per sé. Poi la classifica di Pitchfork, qui al numero 80, vedrebbe una canzone di Moses Sumney, ma siccome ne ha due, noi le abbiamo unite insieme e le ascolteremo nella seconda parte, nella seconda trasmissione dedicata alle 100 migliori canzoni dell'anno. Tra l'altro il suo album A Romanticism è addirittura al numero 6 per la classifica di Pitchfork degli album, e al numero 28 invece per quella generale, la media di tutti i media specializzati. E sicuramente avrete riconosciuto il numero 78, On Hold di XX, dove l'album I See You è il numero 40 come migliore dell'anno e il numero 27 su Album of the Year. È stato detto tutto su questo terzo lavoro degli XX. E veramente, anche questo pezzo all'inizio io ero un po' scettica, però è vero che poi cresce. Soprattutto quando ho capito che c'è questo campionamento di Hall & Oates. Think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold, and every time I let you leave. La scheda di Pitchfork relativamente a questo pezzo parla appunto dell'intimità, dello scambio che si sente sempre tra Romy e Oliver, dice che lascia però Jamie XX in una posizione difficile, come uno che cerca di schiodare i suoi amici che stanno a parlottare in un angolo e farli scendere in pista a ballare. Someone, appunto questa canzone segna il momento in cui lui alla fine li afferra per le braccia e li porta sotto le luci della pista. E man mano che si risale nella classifica vediamo che c'è una coerenza tra la posizione più alta come canzone, la posizione più alta come album nella classifica di Pitchfork e la posizione più alta come album nella classifica delle classifiche generali. Parliamo di una gradevolissima scoperta di questi ultimi mesi, ovvero di Kelly Lee Owens. Il pezzo che è stato scelto è Anxi, una collaborazione con Jannik Wall. Il suo album omonimo è al 33esimo posto della classifica di Pitchfork e al 23esimo della classifica generale. Numero 76, la scheda inizia dicendo che c'è stata una forte corrente di tecnofemminismo che è corsa durante tutto il 2017. E Kelly Lee Owens veramente è stata una grandissima sorpresa, l'abbiamo vista anche dal vivo Club to Club, diciamo che dal vivo forse potrebbe migliorare. North Galles, trasferitasi a Londra ovviamente, ha fatto un tiracinio alla XR Recordings, ha lavorato in diversi negozi di dischi tra cui Rough Trade e Sister Ray, collaborando poi anche con Daniel Avery, facendo un rework di un pezzo di Jannik Wall, quindi appunto si è instaurato questo rapporto. E quindi poi quest'anno l'album omonimo che raccoglieva appunto anche pezzi già pubblicati precedentemente come Lucid, la nostra preferita. E come anche in diversi altri pezzi del disco c'è sempre questo passaggio, la parte calma e dopo quando cresce sempre di più il beat. E anche lei appunto quando suona dal vivo si perde totalmente, come fosse una ragazza che sta ballando, persa nella musica, si perde nella propria. Arriviamo alla posizione numero 72, dove troviamo anche un rapporto di, non lo so, tra fastidio e curiosità, dipende. Per le tre sorelle Haim, Este, Danielle e Alana, che sono tornate quest'anno con un nuovo album, Something to Tell You. Penso che per la prima volta abbia sentito questo pezzo a Vodafone FM. Si tratta di Want You Back. molto tipico. È che stanno facendo qualcosa di nuovo. Però appunto hanno il loro inconfondibile stile, per cui niente di nuovo, ma quello che fanno lo fanno solo loro. E tra l'altro, giusto per fare una cosa in più, all'ultimo momento sono anche andata a vedere se magari qualcuna delle canzoni contenute nella classifica delle 100 best songs del Pitchfork, perlomeno quelle che noi abbiamo scelto, che sono comunque più della metà, per questo faremo due puntate, facessero per caso anche parte della classifica di Pitchfork dei 20 video migliori dell'anno. E infatti le Haim ci sono al numero 12 della classifica dei best videos. Io il video l'ho guardato, è praticamente un piano sequenza, qui loro tre camminano sul Ventura Boulevard di Los Angeles alle 7:15 del mattino, ovviamente strada chiusa e libera e deserta solo per loro, cielo un po' nuvoloso, loro camminano vestite malissimo e cantano la loro canzone facendo un po' delle mossette a sottolineare, soprattutto la ragazza al centro che adesso non mi ricordo come si chiama, Este è sicuramente la bassista, che dal vivo è veramente uno spettacolo. Insomma, cantano la loro canzone camminando, loro tre, in mezzo alla strada. E come ho detto, mi capita di ascoltare delle canzoni molto spesso per la prima volta, appunto quando vado a vedere la classifica di Pitchfork. Però questo personaggio che abbiamo scelto di passare non è assolutamente sconosciuto, infatti anche in altre puntate per le migliori canzoni dell'anno abbiamo suonato un suo pezzo. Si tratta di Vince Staples from Long Beach. Perché non è che a noi non ci piace il rap e l'hip hop, sì, però ci deve essere un ritmo che ci acchiappa anche nel flow. Boy, I'm boy, yeah, we are floating on the beyonds. Going to they take my bro and mouth them CDC us. Prison system broken, racial war commotion. Until the president get dashy, Vincent won't be voting. We need to meet cause it's your equals in that Oval Office. Obama ain't enough for me, we only getting started. The next Bill Gates can be on Section 8 up in the projects. So today love my dog skin, bitch, I'm going all in. E poi lui ci fa simpatia. Non mi ricordo se avevamo messo North North. Just ma prima ancora penso che avessimo suonato anche Blue Suede al 2014. Questo pezzo invece è Bug Buck, tratto da l'album di quest'anno, si chiama Big Fish Theory, e io vado sempre comunque a leggermi i testi, e quindi questo testo c'è scritto che a questo punto dice We on now, quando secondo me dice We on ya, con il senso, l'uso del verbo own, fa delle serie ti ho preso, ti posseggo, ti domino, ti ho fregato, insomma sono superiore a te, ti ho in pugno, e cambiamo assolutamente tenore, forse c'è qualcuno che inorridirà questo accostamento, ma è la classifica, sono i numeri. In realtà dopo le Haim c'era Perfume Genius con Die For You, che non la passiamo, che abbiamo già fatto una monografia su di lui, anche un altro pezzo in classifica. Poi c'era Vince Staples al 66, poi c'era anche una grande novità che ho scoperto appunto grazie a questa classifica, ovvero Niloufer Yanya al 64esimo posto con Golden Cage, ma la risentiremo nella seconda puntata perché ha un altro pezzo in classifica. E siamo arrivati a 63 con Julian Baker, Turn Out the Lights, pezzo che dà anche il titolo al suo album di quest'anno. Musicista giovanissima. Ma già veramente affermata dopo la firma per la Matador Records, un primo album prima, nel 2015, Sprained Ankle, e poi questa conferma dove aumenta insomma la strumentazione partendo da classico voce chitarra, il suono si espande e i testi sempre molto profondi, molto personali. Nata e cresciuta a Memphis, Tennessee, si identifica come gay, magari è una di quelle ragazze che usa la parola gay e non dice lesbica, e soprattutto si identifica come cristiana, e in tantissimi suoi pezzi c'è questo dialogo diretto con Dio. E questo album al numero 18 come miglior disco dell'anno per Pitchfork, al numero 24 nella classifica delle classifiche generali. E Pitchfork fa anche una lista di citazioni, e c'è anche la citazione di Julian che dice e ci fa piacere che nonostante la depressione e la solitudine, la tristezza, non mancano nella sua vita momenti di gioia, e che proprio nel momento in cui lei embrace, quindi accoglie i suoi lati, gli aspetti, gli stati più negativi, che può in un certo qual modo dominarli. Dicevamo, la maggior parte dei pezzi che non conoscevamo sono quelli della scena più R&B, hip hop, rap. Infatti questo è un pezzo di French Montana vero nome Karim Kharbouk, nato a Rabat, quindi marocchino, però è emigrato negli Stati Uniti con la sua famiglia quando aveva 13 anni. South Bronx. Il Bronx musicalmente ritorna spesso in questa classifica, addirittura al numero 1, ma ne parleremo la prossima volta. Ma come abbiamo detto, anche Ride for the Riffraff è cresciuta nel Bronx. Questo pezzo di French Montana featuring Swae Lee si intitola Unforgettable. Il video è molto bello, è girato dove loro cantano e ballano soprattutto con ragazzi del posto, di un villaggio in Uganda. E siccome il pezzo è musicalmente gradevole, l'abbiamo scelto. Canzone che parla di una delusione amorosa, insomma, di una storia che è finita, di un rimpianto, di una tristezza. Infatti adesso vedo anche che la copertina del pezzo è la foto di un matrimonio, probabilmente dei suoi genitori, mi sembra molto marocchino e molto vintage. E infatti leggo il quadro del matrimonio di mio padre e mia madre in Africa. E quindi ha un contributo alla sua famiglia. Che quando si sono sposati, poi lui è nato, poi il padre è stato incarcerato e poi dopo che è stato liberato sono partiti nel 96 per gli Stati Uniti. E siamo passati alle girl pool. Questo pezzo lo fai molto delicato, si chiama 1, 2, 3. L'album al 45esimo posto per Pitchfork si chiama Power Plant. Noi già l'avevamo sentita a Might FM nella trasmissione dedicata a Aaron Main, ovvero Porches. Ora non ricordo quale fosse il collegamento, ma le Girl Pool sono una folk punk band di Los Angeles guidate da Cleo Tucker. Anzi, in realtà sono in due. L'altra membra è Harmony Tividad, anche se adesso per questo album hanno anche un batterista. Sorry about the love. siamo arrivate alla posizione numero 60, un pezzo a noi molto caro, se non altro perché l'abbiamo ascoltato un sacco di volte in questi ultimi mesi. Si tratta di Marilyn featuring Mikachu dei Mount Kimby, numero 34 come album con Lot What Survives. Non figura nella classifica delle classifiche aggregate dei 50 migliori dischi dell'anno, ma ha una menzione d'onore con 28 punti. Si considera che il disco che è al 50° posto ne ha 40, ma ho visto ieri, a distanza proprio di mezz'ora, che già ancora stavano conteggiando altri punteggi di altre classifiche. E anche di Mount Kimby abbiamo detto veramente tutto quello che potevamo pensare di dire nella monografia a loro dedicata lo scorso ottobre, in questo ritorno molto atteso con questo album che vede tanti, alcuni ospiti, amici, collaboratori, soprattutto King Krul che ritorna, James Blake e Andrea Balenci che poi suona e canta con loro, in tour con cui ho potuto parlare dopo il concerto a Milano. E quindi Mount Kimby, Don Maker e Kai Campos, abbiamo detto veramente tutto. Are you looking up at me? Parlare della 59esima posizione, dove troviamo anche in questo caso una novità per noi. Si tratta di Julie Byrne from Buffalo, New York, classe 1990, influenzata da suo padre, lui chitarrista, quindi fin da piccola ha iniziato a suonare. E ha pubblicato due album nel 2014 e quest'anno Not Even Happiness, da cui ascoltiamo la canzone che appunto è 59esimo posto. Si tratta di Natural Blue, l'album numero 37 nella classifica degli album e 26 come media di tutte le classifiche dei media di settore, quindi insomma posizione metà classifica per una quasi newcomer. Natural blue. canzone che parla dell'esperienza di andare in tour e guidare attraverso cittadine del sud-ovest. E quando ti ho visto per la prima volta, il cielo era di un blu così naturale. Racconta appunto questa esperienza fuori Boulder, in Colorado, quindi zone di montagna, zone di neve, una località sciistica. E questo incontro tra i ragazzi, una festa in una casa, in un mondo totalmente separato, insomma, dalla comunità più cittadina, musicale, a cui lei è abituata. Tra l'altro, molto interessante, ha studiato scienze ambientali e nel 2016 ha lavorato come ranger stagionale a Central Park di New York. E le dice: ho cominciato a vederlo come un santuario non solo per i newyorkesi, che così possono fare esperienza, insomma, del loro legame con la natura, ma anche per gli animali selvatici che trovano rifugio lì. E anche se i quartieri intorno non riflettono questo aspetto, i parchi invece appartengono alla gente di New York. Quindi ho apprezzato molto quindi fare questo servizio di pubblica utilità, Judy Byrne. E arriviamo ad un personaggio che abbiamo citato prima per una similitudine nella costruzione musicale della canzone. Si tratta di Father John Misty. Betting Taylor Swift every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. And now the feature's definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life. Josh Stillman, che ha pubblicato quest'anno un nuovo album, Pure Comedy, dove continua con la sua satira tagliente, sarcastica, insomma, della realtà che ci circonda. In questo pezzo, Total Entertainment Forever, parla appunto dell'intrattenimento che ci diamo attraverso la tecnologia, attraverso anche la pornografia in rete. Dovrei riascoltarmelo il disco, perché al primo ascolto non mi ha catturato come il precedente, invece bellissimo, ma invece ha catturato molti critici. Infatti l'album è al 14° posto nella classifica delle classifiche, ma non figura in quella degli album di Pitchfork, mentre appunto questo pezzo è al numero 57. Plugged into our hubs, skin and bones, a frozen smile on every face, as the stories replay, This must have been a wonderful place. A un posto più in alto ci sarebbe King Krul con Zach One, però anche lui, siccome ha un altro pezzo in classifica, lo ascolteremo nella seconda puntata, ricordando che il suo album The Ooze è stato uno dei più graditi dell'anno in assoluto, al numero 3 per Pitchfork, al numero 18 nella classifica delle classifiche. E siamo arrivati invece al 55, dove troviamo una vecchia conoscenza, ovvero Kiran Ebden in arte Fortet, abbiamo visto dal vivo innumerevoli volte. È super prolifico, è arrivato quest'anno al nono album, si tratta di New Energy, un album che anche lui ha ricevuto la menzione d'onore con lo stesso numero di punti raccolti da Mount Kimby. E questo pezzo invece figura nella classifica, si tratta di Planet, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del disco. Il primo singolo che è stato pubblicato, ma invece è l'ultimo pezzo che chiude il disco, un pezzo che, come capita spesso nella musica elettronica, viaggia oltre i 7 minuti e 20 di lunghezza, e noi per motivi di tempo l'abbiamo ridotto a 4 minuti, ma sempre più che sufficienti per capire e assimilare, insomma, il tenore, il vibe del pezzo. Non abbiamo detto, perché veramente mi era sfuggito, che al numero 58, cioè il primo dei 4 pezzi di Kendrick Lamar che figurano in questa classifica, ne volevamo mettere 2, alla fine ne metteremo solo 1, ma la prossima puntata. Inutile, ogni volta che Kendrick Lamar fa un disco, fa un album, finisce al numero 1 della classifica dell'anno per tutti. Appunto, dicevo, questa attenzione di Pitchfork nei riguardi della scena R&B, hip hop, ma anche di fenomeni veramente superficiali e passeggeri, c'è addirittura un pezzo ironico, comico, di presa in giro di un inglese di un pezzo grime, però di presa per il culo praticamente, e non capisco la rilevanza, non capisco anche come questi giovani editor hipster di Pitchfork possano proporre, promuovere anche dei messaggi che spesso ancora si ritrovano in tanti pezzi rap e hip hop, nell'immaginario appunto di maschi che chiamano le femmine troie, che si fanno chiamare troie, e orologioni, macchinoni e soldi e droga eccetera. Addirittura c'è un pezzo dove ci sono tantissimi ragazzi che brandiscono mitra e pistole. Mi sembra anche un po' contraddittorio, perché è vero che è una scena che è molto fluida, molto vitale, ci sono anche tantissime novità dal punto di vista sonico, eccetera, però non lo so, penso che forse potrebbero scremare un po' di più. Fine pippone, inizio di un pezzo bellissimo di una musicista che noi apprezziamo molto, abbiamo già sentito diverse volte qui in trasmissione. Una volta, l'ultima proprio nella trasmissione dedicata a Mount Kimby, in quanto fu ospite nelle loro trasmissioni radiofoniche, e precedentemente appunto per Best del 2016. Si tratta di Caitlin Aurelia Smith e questo pezzo si chiama An Intention. Un pezzo tratto dal suo ultimo lavoro che si chiama The Kid, e appunto quando dicevo che ancora ieri stavano conteggiando delle classifiche su Album of the Year, in corso d'opera ho visto che si è guadagnata il 50° posto, tipo era la prima dei non eletti. Questa canzone è quasi a metà per Pitchfork e anche l'album 44° posto per la classifica dei 50 best di Pitchfork. Compositrice, performer, producer, originalmente delle Orcas Islands, adesso vive a Los Angeles. Una formazione accademica al Berklee College of Music di Boston. Vedo adesso che ha fatto un remix di Breathe di Perfume Genius, assolutamente da cercare. Manco un remix di Max Richter. Bellissimo, devo dire che mi era sfuggita questa ultima, questo ultimo album, e non mi dispiacerebbe per niente vederla dal vivo. Ce la vedrai a Spring Attitude. E appunto tornando alla scena R&B americana, ho fatto quest'altra scoperta. Numero 53, si tratta di Kehlani. Anche al 47° posto come miglior album, si tratta di Sweet Sexy Savage, debutto, primo album di debutto, 29 punti, quindi non tra i primi 50. Lei giovanissima, 22 anni, questo pezzo che ricorda un po' No Scrubs del TLC. Cantante, autrice e ballerina di Oakland. They don't wanna see it happen, but we say fuck it. forget to go away. I'ma pick you up from the back and change. Catch you in a world, promise I'll pretend. You're just you, I'm just me. There's no us, it's nothing. One way or another, I'ma love you. Sliding under. Nel 2015 ha pubblicato la sua seconda mixtape, You Should Be Here, che addirittura è stata nominata come per il Best Urban Contemporary Album Grammy Award. C'era anche un altro rapper, Future, che però non abbiamo, avevamo pensato di passarlo su pezzo Incredible, ma invece non l'abbiamo fatto e siamo arrivati al 51 con un gruppo che conoscevamo di nome ma non abbiamo mai ascoltato. Si tratta dei Paramore. Il pezzo si chiama Hard Times, l'album si chiama After Laughter. Alternative rock, pop punk, power pop. Insomma, bisogna arrivare a metà classifica. Siamo a, appunto, al 51, a parte le Haim, insomma, per ascoltare del bel pop, semplicemente. Band di Franklin, Tennessee, che esiste già da una decina d'anni. Infatti si tratta del quinto album in 13 anni. E dicevamo, volevamo mettere Incredible di Future perché non era per niente male. E anche il suo album Hendrix, scritto solo con le lettere H-N-D-R-X, è il numero 27 per Pitchfork. Anche questo After Laughter de Paramore è stato abbastanza votato, ha raccolto 39 punti nella media delle classifiche dell'anno. Abbiamo detto prima come chi è all'ultimo posto, ovvero Catherine Aurelia Smith, ne avesse 40, quindi proprio al primissimo, proprio per un pelo. E arriviamo a un'altra vecchia conoscenza che abbiamo ascoltato poco tempo fa, non l'abbiamo visto dal vivo perché ha suonato il sabato sera quando noi avevamo già abbandonato il Linecheck Music Festival, Stephen Brunner in arte Thundercat, però l'avevamo già visto un paio di volte. Anche lui, l'album di quest'anno, Drunk, molto molto apprezzato. E questo pezzo così classico, proprio da radio fine 70, inizio 80, che non a caso ha un featuring, un doppio featuring, con il rappresentante principale di quella scena, ovvero Michael McDonald e Kenny Loggins, quello che cantava anche Footloose. When it's all over and into the light, Thundercat che si è fatto conoscere, che fa parte di tutta quella scena americana che ha riscoperto poi il funk, il jazz, il free jazz. Lui è un virtuoso del basso, quindi collaborazioni con Kendrick Lamar, Kamasi Washington, Flying Lotus, ma anche Erykah Badu, anche Vic Mensa, un altro giovane rapper. E quest'album, l'album di cui fa parte questo pezzo, Show You The Way, è al numero 24 per Pitchfork e al numero 19, quindi posizione anche più alta nella classifica generale di Album of the Year. No one can tell their worlds apart. We'll live or die, just take the ride. E siamo arrivati quasi alla fine di questa prima parte dedicata alla summa delle canzoni dell'anno della Mighty Pitchfork, ovvero il forcone potente, e siamo arrivati ad un gruppo, Big Thief, che già avevamo sentito nella trasmissione dedicata a Mitski, che penso di aver fatto conoscere Olivia. Pezzo molto molto bello. Quell'indie americano così semplice. La canzone è Mythological Beauty, numero 23 su 50 per Pitchfork, l'album Capacity addirittura al numero 17 della classifica generale. Nella puntata dedicata a Mitski, perché insomma parlavamo di giovani voci femminili della scena indie americana, avevamo passato un pezzo dal primo album dell'anno scorso, Masterpiece, tutti e due gli album pubblicati per la Cedar Creek, li conosciamo bene. Quartetto originario di Brooklyn, guidato da Adrienne Lenker più altri tre ragazzotti. In questa canzone Mythological Beauty lei ricorda in modo assolutamente poco romantico le sue origini, si rivolge a sua madre e dice: a 17 anni ti hai preso il suo sperma e ha dato vita, hai fatto nascere la tua prima vita, give birth to your first life. E poi parla appunto di vari eventi traumatici che hanno dato forma alla sua infanzia, alla sua adolescenza, compresa anche il fatto che suo fratello più grande fosse stato dato in adozione. Quindi il contrasto tra questa musica così sognante, cullante, calma, invece questi ricordi ed eventi così traumatici. Infatti anche Masterpiece, la copertina, c'era un un adolescente, un ragazzino, forse preadolescente, con un neonato in braccio. Quindi molto, molto realismo, molto, non lo so, white trashness, non so. Linea di basso inconfondibile, Psycho Killer dei Talking Heads, e forse qualcuno griderà allo scandalo perché abbiamo scelto questo pezzo. I nostri migliaia di ascoltatori che boicotteranno Mighty FM perché sta passando un pezzo di Selena Gomez. Cioè, io non sapevo assolutamente chi fosse. Poi, come si dice qui a Bologna, ho imparato che era anche lei una starlette della Disney. Scoperto che è molto presente proprio in questi giorni anche sulle cronache di gossip, in quanto è stata fidanzata di Justin Bieber dal 2010 al 2014. Poi quest'anno, quasi tutto l'anno, ha avuto una relazione con Belt Spy, ovvero The Weeknd, ma adesso ritorno di fiamma proprio questi giorni con Justin. E questo pezzo è un singolo uscito nello scorso maggio. Dopo due album solisti, insomma più adulti, dal 2013 al 2015, e come dice la sua scheda di Wikipedia, se questo singolo anche segna una mossa verso una produzione pop un po' più adulta, adult pop. Guess I'm a bad liar. And oh baby, let's make reality. E visto che appunto non è un personaggio che conosco, leggo qua e là e vedo anche che è stata molto criticata per aver interpretato al cinema un ruolo sbagliato per lei, insomma un ruolo molto più adulto della sua età, in un film con James Franco che addirittura le ha fatto avere una nomination come peggiore attrice al Golden Raspberry Awards. Insomma, l'abbiamo scelto perché non fa assolutamente male a nessuno questa Bad Liar, ma recuperiamo subito e ribilanciamo il karma musicale con un grandissimo ritorno di quest'anno. We'll be right back. e alziamo il volume al massimo per saturare il suono. Grande ritorno, erano già ritornati sulle scene, sui palchi almeno da qualche anno, infatti li abbiamo visti anche a Porto. Ma il grande ritorno è stato quello del disco, e un grande ritorno non poteva che portare il proprio nome, ovvero Slow Dive. Dive, uno dei gruppi che ha fortemente influenzato band arrivate dopo di loro, sono formati nell'89, quindi in la scena shoegaze. Neil Halstead e Rachel Goswell, amici d'infanzia da Reading. Nel 91 il debutto con Just For A Day, la grande conferma nel 93 con Souvlaki, dischi che abbiamo, poi Pygmalion nel 95 e appunto per 22 anni nessuna pubblicazione di materiale originale, perché poi dopo appunto l'inizio di questa pausa. Vedi che poi niente per sempre, chi pensava che si riformassero e facessero nuovi concerti e nuovi dischi. Insomma, sono susseguiti anche altri progetti, fondamentalmente la produzione di Neil Halstead, soprattutto con quel progetto Mojave Tree. È il pezzo che stiamo ascoltando, numero 46 della classifica, è Star Roving, l'album Slow Dive al numero 30 per Pitchfork e al numero 13 per la classifica generale. È stato proprio con questo pezzo che sono ritornati, primo singolo in 22 anni, il 12 gennaio. Ricordiamo anche un altro pezzo molto bello, Sugar for the Pill. E siamo arrivati veramente alla fine di questa prima parte ascoltando 29 pezzi, come avevo detto prima. Perfume Genius figurava già nella classifica con Die For You, ma invece di farle sentire tutte e due anche per motivi di tempo e perché abbiamo sentito e risentito per mesi, insomma il 1 giugno abbiamo fatto una monografia sul bellissimo album No Shape, guidato, lanciato appunto da questa bellissima canzone Slip Away, numero 45, quindi siamo arrivati quasi a metà e così chiudiamo dandoci appuntamento alla prossima puntata, non so, la settimana prossima, dopo Natale, tra Natale e Capodanno, sì, perché Mind FM non vi abbandona mai neanche durante le feste. E questa canzone appunto fa parte del bellissimo No Shape. Abbiamo fatto la trasmissione, l'abbiamo visto quest'estate, l'abbiamo rivisto a Line Check, quindi l'abbiamo suonato di riffa o di raffa spesso. E coincidenza, tripla coincidenza, l'album è al 16° posto nella classifica di Pitchfork, è al 16° posto nella classifica generale di Album of the Year e questo video è al 16° posto nella classifica dei Best Videos di Pitchfork. Pitchfork fa anche una classifica delle migliori citazioni, ma citazioni da dichiarazioni, interviste eccetera, ma anche di versi di canzoni, e mi pare di ricordare che appunto una delle citazioni venga appunto da questo pezzo che dice: se noi non li vediamo arrivare, se non ci rendiamo conto che sta arrivando qualcuno che può nuocerci, che può avere un atteggiamento aggressivo, muoco contro di noi, se non li vediamo arrivare non abbiamo nessun motivo di nasconderci. Ed è così, con queste note trionfanti di Mike Address, Perfume Genius, che ci diamo appuntamento alla seconda parte delle migliori canzoni dell'anno. Ciao da Claudia Mighty Mouse.